Cioè, non basta Milan Alessandro, non basta il Milan, quello là, i rossoneri, no, altri 100 Milan, uno nessuno, 100 Milan, va, troppo Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 9 e 7 minuti. Buongiorno, è una giornata allegra, un po' uggiosa. A Milano c'è la pioggia. Ma siamo allegra, qui. Però sì? Perché cominciamo con la marcia funebre? Oh, c'è Mario Calabresi, buongiorno, è tornato Mario Calabresi. No, mi hai tenuto prigioniero tutto il fine settimana. Infatti, qui. Sei riuscito a trovare l'uscita? No. Cosa Ma, c'è? Da, non ho capito perché c'è la marcia funebre. Che marcia funebre? Ah, non c'è una marcia funebre sotto? Sarà il tuo umore che si sta diffondendo nella stanza? No, sarà so. Forse il derby so. Di ieri sera? Perché hai messo la marcia funebre alpino? Il derby? Cos'è il c'è derby? Stato un derby ieri sera. Per portare via un calcio d'angolo, invece porta via un bell'assist per Moses che vuole Lukaku. Parliamo in italiano, Lukaku! Siamo in Italia, parliamo italiano. Che cos'è il derby? Che parola è derby? Lukaku, questo nome lo conosci? Questo già anche questo non è molto italiano, insomma. Non capisco, non capisco. Il calcio? Cos'è il calcio? Cos'è il calcio? Tu ridi, ride, ride. No, ma io rido solo per la tua faccia. Mario Calabresi, no, no, ride. C'è poco da ridere. C'è poco da ridere, guarda come ti facciamo ridere noi. La rincorsa di Pazzini! Pazzini! Fa impazzire il Bentegodi! Va bene, va bene. Non lo so. Ti eri preparato tutto. C'è la gente che ama la frutta, mi manda delle pere, non lo so, via SMS, non capisco. Guarda qua, come mai la gente mi manda le pere? Le pere? Qua, non quattro so. Te ne manda poi. Ah, le hai contate. E così pare, sul tuo schermo ci sono quattro che pere. Strano. Chissà perché mi vogliono dare da mangiare. Detto questo, proviamo a essere, è presente quelle cose bellissime sì. Che si dicono a cui nessuno crede, ma sportivissime. Sì. Meno male che da tanti anni non c'era un campionato combattuto, sì, e questo fa vero. Bene al calcio, fa bene al campionato. No, effettivamente, meno male che c'è un campionato combattuto, speriamo che perda l'Inter. Poi tutto il resto, insomma. Signori, è un gran lunedì, già è lunedì. Bisogna abolire i posticipi. Leverei serali. La marcia funebre, sì, se esatto, mi posso permettere. Amici ascoltatori, allegria. Godo come un riccio dai, appena nato. Vai, metti qualcosa di un po' più allegro, alpino, inventati qualcosa. Io vorrei abolire i posticipi serali della domenica di calcio, che poi uno già va a dormire proprio depresso, già è lunedì il giorno dopo. Poi vai alle 11 di sera, vai con questa mestizia. Beh, però, questa... alcuni vanno con la mestizia, sì, altri noi, saranno andati felici a dormire. Noi da otto anni. Gli interisti vanno a dormire felici. Va bene, signori, come avete capito, l'Alpino, la Prosesto, ha perso. Ti ringrazio, ha perso anche la Prosesto, ma siamo primi in classifica e domenica io sarò allo stadio perché c'è Prosesto 51 punti, Legnano 50. Scontro al vertice e dobbiamo ammazzare il campionato. Va bene, scusa, tengo anche la Prosesta, è stata una domenica disgraziata. Allora, signori, è tornato Mario Calabresi, anzi non è mai andato via. Buongiorno. Sta con noi, oggi parliamo di tante cose molto interessanti. Vai Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Allora, 800 24 00 24, non chiamatemi per dirmi com'è andato il derby, dai, tanto voglio dire, vi ringrazio, ci sono anche delle banane. la gente mi vuole bene, mi vuole, io amo la frutta, quindi mi vogliono apri un banchetto stamattina. Simpatico Mario Calabresi, che in realtà ieri tifava Milan. È ovvio, vabbè, è certo. Ovvio. Quindi adesso fa tutto il brillantone, ma ieri... Ma no, ma è la tua faccia quando sono arrivato che era uno spettacolo. Va bene, signori. Oh, sai che, caro Mario, noi tra poco ci collegheremo con Wuhan, dove c'è la nostra inviata, l'abbiamo nominata sul campo, Sara Platto, da qualche giorno. Ma leggevo addirittura di un rischio di crisi diplomatica con la Cina. La Cina pare arrabbiata con noi. E dire che era l'anno in cui dovevamo fare, no? Ti ricordi anche l'apertura di questi rapporti commerciali che avrebbero rivoluzionato rapporti tra Italia e Cina, invece e poi è arrivato il virus. È arrivato il virus. Ma una cosa interessante di oggi è che oggi è il giorno in cui la Cina, nonostante l'epidemia, prova a rimettersi in moto, cioè riaprono gli uffici, riaprono le scuole, riaprono con tutta una serie di regolamenti, cioè tu puoi far andare in ufficio un numero di persone per cui tra una scrivania e l'altra, tra una persona e l'altra ci siano almeno 2 metri di distanza. Sì, sì. Ogni ufficio deve avere tutto il disinfettante, le mascherine, però provano perché in questo momento è tutto fermo, per cui oggi comunque sia provano a ripartire. È tutto fermo, ti preoccupa quello che ha detto anche il governatore di Banca Italia Visco a dire che l'economia italiana rischia... Ma l'economia rischia di tutto il mondo, dipendenza, la dipendenza dalla Cina, soprattutto nelle manifatture, pensa a tutto quello che sta dietro a tantissimi oggetti, ma pensa, prendiamo i telefoni, i computer, la costruzione delle reti infrastrutturali. La Cina è un fornitore, è il fornitore del mondo, è la fabbrica del mondo, e in questo momento la fabbrica del mondo è quasi ferma. Sì, è vero, cioè la Cina sta diventando anche un paese di grandi consumatori, ma soprattutto è un paese di grandi produttori e anche di grandi fornitori. Forse qui però, adesso non vorrei fare, ci sarà un giorno in cui ci interrogheremo sul momento in cui siamo diventati molto dipendenti dalla Cina, dove la forza lavoro viene pagata molto meno, dove quindi conviene comprare. Oh, per carità, non vorrei che poi venisse usato come un argomento da parte dei sovranisti a dire... Ce ne siamo già tanto occupati, se pensi che il Make America Great Again, lo slogan di Trump, è uno slogan sostanzialmente di confronto con la Cina. Sì. Cioè abbiamo lasciato che il lavoro, le fabbriche, che la fabbrica del mondo non fossero più gli Stati Uniti, ma diventasse... la Cina, e oggi dobbiamo riportare a casa il lavoro. Questo è stato sostanzialmente il ragionamento di Trump, quindi questo discorso, e il momento è quando la Cina viene portata dentro nell'organizzazione nel WTO, lo spostamento, e tu dicevi giustamente, sono i costi, ma sono anche i diritti. Sì. Perché i diritti di un lavoratore cinese non sono i diritti che ha un lavoratore in Occidente. Questo sì. Allora, eccoci qua appunto da Wuhan, la nostra inviata sul posto, no, in realtà la nostra Sara Platto, ben ritrovata professoressa Platto, eccoci qui. Buongiorno, veterinaria Wuhan. Buongiorno. È da giorni che ci sentiamo, siamo contenti perché sono arrivati i rifornimenti che contano, oggi la vediamo anche a pagina 3 del Corriere della Sera, insomma i rifornimenti che contano, i nostri ascoltatori lo sanno, la Nutella, è arrivata la Nutella, così. Esatto. Il caffè. Però allora, intanto, Sara Platto, so che è una vicenda un po' sulla quale non si può dire molto, ma insomma su questo ragazzo 17enne di cui lei si prende cura, essendo una delle poche italiane rimaste. Devo fermarla perché non è mio compito dire nulla, per cui l'unica cosa che ho detto è sul Corriere, sì. E quella è l'unica cosa che posso dire, non posso dare altre informazioni. Sì, vogliamo ripetere che aveva 37,2 credo, 37,3 di ieri, quando non è stato fatto partire, aveva un rialzo termico, ecco, questo è stato definito così, giusto? Sì, però le dico, non mi chieda altro, perché che c'è scritto è quello del Corriere, quello che c'è sul Corriere, sì. E basta. Non si può. Come si vive lì, allora? Facciamo questo resoconto quasi quotidiano di Wuhan, che è una città dove si gira poco ormai, dove è tutto un po' bloccato. Allora, adesso alcuni giorni fa il governo aveva detto che Wuhan doveva intensificare i lavori per controllare l'epidemia, quindi aveva richiesto di di disinfettare tutti gli ospedali, di trasferire i malati meno gravi nel nuovo ospedale e in ospedali che sono stati allestiti all'interno campi sportivi chiusi, e poi di sottoporre ad analisi sierologiche tutti i sospetti. in modo da capire chi c'è, c'è, chi non c'è, c'è, insomma, una cosa del genere. Infatti così stanno facendo. Addirittura mi è arrivata notizia che anche nella mia università sono stati aperti un ospedale, diciamo così, da campo all'interno di alcune strutture dell'università per ricevere malati meno gravi. E in più niente, nel senso stanno cercando assolutamente di controllare come possono la situazione. In altre parti della Cina la situazione è molto meglio controllata, anche perché i casi erano insomma inferiore rispetto a quello che sta succedendo a Wuhan o comunque nell'Hubei. Infatti sì, ci è arrivata notizia che a scuole in alcune parti della Cina ricominceranno il 16, che ricominceranno lentamente anche le attività lavorative. Anche qui è da Wuhan, nel senso che nel mio compound, per esempio, mi è arrivata notizia che le macchine che devono uscire, di gente che deve andare anche a lavorare, devono avere comunque un permesso per sapere che quella macchina esce e rientra, per insomma, avere un controllo maggiore. Cioè, ricordiamo, una città di 11 milioni di abitanti, certo, ma sì, come si fa a controllare e a fare in modo che 11 milioni di abitanti si comportino secondo le regole? Mi sembra abbastanza... complicato. Guardi, allora, nel senso che noi in Italia abbiamo gli appartamenti, nel senso che c'è l'edificio e così, liberi così, no? Ma qui tutto è all'interno di compound, cioè tutti gli appartamenti sono raggruppati in compound, e quindi il compound ha un management che gestisce, diciamo così, la struttura. Per esempio nel mio caso non solo abbiamo un management del compound, ma ogni building, ogni edificio o un gruppo di un paio di edifici c'è il manager dell'edificio. Infatti hanno creato nel nostro caso il gruppo di WeChat con tutti gli inquilini dei due edifici che il manager gestisce, e dove appunto si danno informazioni sul delivery il delivery, sì, non mi viene in italiano, sì, della frutta e della verdura, sì, gratis ogni due giorni, e di tutte le informazioni che sono necessarie, incluso anche il controllo della temperatura, perché sì, infatti ci si richiede ogni giorno di dire se chi ha o chi non ha la temperatura, insomma, ai livelli. Ma questa è la situazione, caro Mario, si vive un po' così, appunto. Poi ci sono anche delle manifestazioni di solidarietà, appunto, ci raccontava la scorsa volta Sara Platto che ci sono le consegne gratis da parte degli omini che portano, sì, la frutta, la verdura, però chiaramente bussano, la lasciano lì alla porta e come dire, no, assolutamente, limitano i contatti. Anche che, sì, io ribadisco anche che io ho amici cinesi che mi chiedono ogni giorno se ho bisogno di aiuto, se sto bene, se ho bisogno insomma di che qualcuno mi porti la spesa, per cui c'è molta solidarietà assolutamente e sostegno ovviamente in questa situazione difficile, per cui sì, solidarietà. Eh sì, ci si deve aggrappare un po' alla solidarietà, perché la situazione ovviamente, per quel che riguarda, quando si dice l'epidemia non è ancora al suo picco, anche in Cina si teme questo, cioè è ancora in fase espansiva purtroppo? Guardi, non sappiamo esattamente, perché si sentono diverse voci, diverse opinioni, per cui nel senso ognuno sta dicendo la propria, per cui noi stiamo aspettando di vedere come effettivamente le cose si evolvono giorno per giorno. Cioè le cifre ufficiali del governo, poi bisogna capire se sono, sì, le cifre. Quali sono riguardo ai contagi e ai morti? Allora, aspetti, nel senso che stamattina non mi ricordo più, però ero circa sui 30.000, devo controllare, sui 30.000 contagiati, sì, abbiamo più di 2.000 o 3.000 adesso quelli che sono guariti e intorno a 800 morti, per cui insomma morti. In generale nella Cina la percentuale di morte dovuta al coronavirus è intorno al 2%. Non lo so, qui c'è da dire, Mario, se dobbiamo credere, perché c'è anche il grande dibattito, credere alle cifre ufficiali del governo cinese, se invece in alternativa di altre lì dobbiamo stare. Dobbiamo stare, cioè dobbiamo pensare. Mi scusi, Io vorrei intromettermi, nel senso che io posso capire che in altre circostanze ci sono state, diciamo così, coperture, eccetera, eccetera. Però io, nel senso, vivendo qui e quindi vivendo la situazione dall'interno, ricevendo informazioni anche in cinese, io le posso assicurare che questa volta il governo cinese ha fatto veramente uno sforzo, cioè disumano addirittura. Si sa per cosa, ecco, ci sono anche tutte, magari... tutte le campagne, tutta la popolazione rurale, magari non è facile, come dire, controllarla dal punto di vista dei numeri, ecco. Ma sicuramente non è facile, perché è un paese enorme, nel senso, io voglio vedere, cioè, se l'Italia avesse un'estensione come la Cina e avesse un'epidemia in corso come quella che c'è qui, che cosa avrebbe fatto, cioè come avrebbe istituito i controlli. Non è facile, per cui io dico, stando dall'interno e vedendo come si muovono le cose dall'interno, le posso dire che c'è uno sforzo notevole da parte di tutti, e a volte davvero anche noi italiani qui che viviamo a Wuhan siamo veramente amareggiati per le continue critiche. E a volte io dico, allora, se tu trovi una persona che sta male, che è lì che moribonda per terra, cioè non è che gli dici, ah, ma tu potevi fare questo, potevi fare quell'altro. Io penso che prima lo si aiuta a ristabilirsi, a star bene, e poi quando tutto è passato, magari davanti a un caffè gli si può dire, ehi, magari potevi pensarci prima, ma non in questo momento, cioè, questa quando è la fase c'è di emergenza. Bisogno di aiuto. Sì, lei dice, questa è la fase di emergenza, poi magari si farà un punto della situazione a capire che cosa non ha funzionato, perché è stato raccontato che nei primi giorni sicuramente c'è stato un po' o di sottovalutazione o di incapacità di reazione immediata, e questo sì, questo ma lei mi dica, mi scusi, lei mi dica in quale epidemia abbiamo visto finora c'è stato mai una reazione immediata? Ah, ma no, ma infatti, anche l'ultima del 2009. Il problema è che sono i giorni fondamentali, insomma, quelli iniziali, ma questo vale per qualsiasi epidemia. Comunque, Sara Platto, grazie, ci sentiamo. Prego. Da Wuhan, cioè, qualcuno dice che sente anche un po' la paura da parte della dobbiamo dire che è difficile capire un'epidemia all'inizio, però anche come avevano fatto arrestare il primo medico che lancia l'allarme, diciamo così, c'era un all'inizio qualche errore, soprattutto per l'idea di dover tenere tutto nascosto, è stata evidentemente fatta. E tra l'altro quel dottore che è morto e c'è stato un grande dibattito anche grandi critiche in Cina. No, sì, ma non dimentichiamo che certamente è un paese dove non è che la verità circoli in maniera immediata, però questo è. Giusto per rimanere su questioni estere, io sono un pochino preoccupato, caro Mario, perché la vicenda di Giulio Regeni, che tra l'altro tu l'altro giorno citavi qui proprio questi microfoni, ci ha colpito la vicenda di Giulio Regeni, lo sapete, ucciso in Egitto in circostanze che non sono mai state chiarite fino in fondo. Adesso c'è questo ricercatore egiziano che studia all'Università di Bologna, che è tornato in patria, è stato subito portato via, arrestato, e la famiglia dice torturato. Sì, lo accusano di promuovere terrorismo, violenza, eccetera, eccetera. Ma sostanzialmente sono le critiche al regime. Le critiche al regime, e lui è un attivista LGTB. E mi ha colpito una cosa, come uno dei più noti anchorman televisivi egiziani l'altro giorno si è intervenuto su questo caso dicendo, c'è di nuovo un caso tra Italia e Egitto, e ha biasimato dicendo, questo ragazzo è tornato dall'Italia per diffondere i costumi immorali. Sì. Allora, che cosa ci insegna la vicenda Regeni? Molte cose non ci ha insegnato, visto che l'Italia sta vendendo due navi da guerra all'Egitto, il nostro ambasciatore è lì, però sulla vicenda di Giulio Regeni verità non ne abbiamo avuta. Abbiamo una pista investigativa fortissima che tira dentro i servizi segreti egiziani per un'indagine della Procura di Roma, ma non abbiamo nessun tipo di collaborazione dalle autorità egiziane. Adesso c'è questo caso, è un cittadino egiziano, è un cittadino che studia in Italia, l'Italia ha l'occasione, e quello che ci ha insegnato la vicenda Regeni, è che più si fa sentire forte la propria voce in un tempo ragionevole e in fretta, e più è importante. Anche perché leggevo che è stato presentato in tribunale questo ragazzo, e con evidenti segni, dice il suo avvocato, di già percosse e torture. C'è la possibilità in Egitto di detenerti in attesa di un processo anche per 2 anni. Si è parlato tanto, ma nello scorso anno è stato l'anno record per arresto di, diciamo, oppositori politici di ogni genere, di cui poi non si conoscono, non si perdono le tracce. Ma anche perché leggevo le accuse formali erano, attentato alla Costituzione, critiche al potere costituito, avere messo delle pagine Facebook nelle quali ci sono delle critiche al potere. Se andate a leggervi le accuse, sono veramente accuse che fanno rabbrividire in qualsiasi paese totalmente democratico. E pensa che questo accade nel paese in cui che è stata la prima meta per turismo italiano a Natale. Esatto. Cioè l'Egitto è tornato ad essere la prima meta dei turisti italiani. Io non ho niente contro il fatto di andare in Egitto, è un paese bellissimo, però dobbiamo andarci e dobbiamo ricordare che a noi i diritti umani stanno a cuore. Se a loro non stanno a cuore, il governo italiano si deve far sentire. Eh sì. Vediamo, perché questa vicenda, come hai detto giusto te, il tempo è fondamentale. Per Giulio Regeni purtroppo non c'è stato tempo, ce ne siamo accorti in ritardo, poi sono nate le campagne almeno per cercare di capire la verità fino in fondo. Adesso, nel caso di questo Patrick Gheorghe Zaki di 27 anni, se non altro non si è fatto lo stesso errore sull'onda della vicenda Regeni, si è intervenuti subito a livello diplomatico e bisognerebbe insomma fare pressione riguardo. Allora ci fermiamo un attimo, poi abbiamo 2 ospiti che sono venuti a trovarci in studio. E un attimo di pubblicità e poi siamo da voi. 1 nessuno 100 Milan. Allora siamo qui 9:33 minuti, vedi caro Mario, finalmente ti sei svelato. Comunque fa piacere aver sentito l'elogio a Trump, finalmente. Dillo che sei trumpiano fino in fondo. Dillo, ammettilo. Ormai si confonde la cronaca. È cronaca. È un dato di cronaca. Altro che Buttigieg, vogliamo fare sentire. Buttigieg, come lo chiamano i vari cronisti americani. Va bene, sono le 9:33 minuti. Siamo qui in diretta agli studi di Radio 24 in via Monterosa a Milano. Caro Mario, tra l'altro oggi è il giorno del ricordo, no? Il giorno del ricordo per gli infoibati. Ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, no? Sì, ma Mattarella ha fatto bene, secondo me, a ricordare una cosa, che le foibe, per molto tempo, lui ha detto, per superficialità o per calcolo, non gli venne dato il dovuto rilievo. E lui dice che questa penosa circostanza pesò ancor più sulle spalle dei profughi. È una cosa di cui, quindi... Oggi che è la giornata in memoria degli italiani torturati e uccisi nelle foibe, e quindi istriani, fiumani e dalmati, è una... se si viaggia, soprattutto nelle terre italiane di confine, in Friuli, le storie familiari che raccontano le foibe, che raccontano la perdita della casa, la gente che è scappata, il dolore dello sradicamento, sono fortissimi. E per troppo tempo non hanno avuto spazio nella memoria italiana. Ed è giusto che riprendano questo spazio. Io credo però che sia importante una cosa. La memoria, io ricordo la grande lezione di Carlo Azeglio Ciampi sul tentativo di una memoria condivisa, che non vuol dire parificare tutto, torti e ragioni. La memoria condivisa vuol dire però che alcuni punti fermi non devono essere usati come armi della cronaca presente, ma devono essere usati per il passato. Per cui se uno ricorda i martiri delle foibe, questo non significa che non debba, che, non significa diminuire l'importanza della lotta partigiana. E così, se uno ricorda l'importanza della lotta partigiana, non vuol dire che nega le foibe. Cioè, io credo che. Ma è sempre quel modo italiano di fare il tifo, no? Di cercare ma bisognerebbe uscire dalle tifoserie, esatto. E poter raccontare. Io serenamente vado nelle Langhe e vedo i ragazzi che vennero messi al muro dai repubblichini, dai nazisti e dai fascisti, e nello stesso modo posso pensare che oggi, che a Milano intitolano il comune un giardino in memoria di Norma Cossetto, che era una ragazza, una studiosa universitaria di Padova che aveva 23 anni, che andava in bicicletta a fare una ricerca sull'Istria Rossa, che non era l'Istria comunista, ma l'Istria Rossa perché, se non sbaglio, la faceva sul fatto che ci fosse le miniere di bauxite, certo. E che venne catturata, suo padre era fascista, le venne catturata, stuprata e buttata in una foiba ancora viva, e noi possiamo ricordarla e bene fa il Comune di Milano a fare un giardinetto. E questo non vuol dire fare una battaglia politica di una parte. Ci sono ovviamente anche i simboli. Adesso il simbolo è quello di Nino Benvenuti, che forse tutti conoscono, insomma, come un grande pugile italiano che ha una storia e proviene da quelle terre, e che adesso, insomma, viene identificato come colui che potrebbe essere nominato, questo almeno chiedono alcuni, senatore, ecco, a vita, per avere un simbolo. Ecco, ma io non ho niente, cioè, personalmente, se tu mi chiedessi, non ho niente contrario a questo, ma, no, ma non è che bisogna avere le caselline, allora c'è uno così, devo mettere uno così, devo mettere uno cos'ha. Questo è un po' il tema, appunto, del tifo, no? Cioè, un conto è ricordare, un conto è la memoria, un conto è onorare le vittime. La storia è fondamentale, la memoria è fondamentale. Io tutta la vita che ho questa fissazione della memoria. Però la memoria non ci deve tenere prigionieri, non può essere usata come fosse un manganello da picchiare in testa agli altri. Quando ne abbiamo parlato, quando c'è stata Piazza Fontana, ma non possiamo 50 anni dopo Piazza Fontana, o addirittura su fatti del 1944-45, usarli come arma della guerra. È una cosa che succede ovunque, nell'est Europa, ma guarda negli Stati Uniti, lo schiavismo oggi è un tema di campagna elettorale, e secondo me questo è un errore. Ma infatti questo ci porta alle due ospiti che sono in studio e che tra poco presentiamo. A proposito di memoria, il buon Mario Calabresi, lo sapete che mi ha messo in crisi, perché io mi sono iscritto alla sua newsletter che partirà il 21, giusto? Sì, il 21 di febbraio. Tra l'altro, diciamolo, perché non lo vuol dire, ma la scorsa volta, quando ne ha parlato qui, in un'ora poi si sono iscritti quanti? Un migliaio di persone. Mille persone, quindi mariocalabresi.it o .com, se, siccome è un po' trampiano, deve essere anche un po' internazionale. mariocalabresi.com, vi potete iscrivere alla sua newsletter di storie. Mi ha messo in crisi perché mi ha fatto questa domanda. Io ho fissato lo schermo per mezz'ora: sei più appassionato della storia o del passato o del futuro? Io guardavo così e ho detto: cosa rispondo adesso? Faccio il passatista, faccio il futurista, non so. E per ora sta vincendo il... sta vincendo, ho guardato ieri, abbiamo superato i 10.000 e sta vincendo 53-47 il passato. Quindi, cioè, io le sono persone nella hanno una più... sono al governo. Perché il futuro fa paura per l'incertezza, per cui le storie del passato alla fine sono un po' come... In America si dice comfort food, per essere trampiani. Comfort food, cioè, che ti dà... È come il purè, il passato di verdura, il passato ci... Però ma se no, il passato è usato bene... Io ti ho detto, esatto, guardo al passato per imparare come muovermi nel futuro. Beh, e qui tu oggi hai portato una storia di una chi storia si occupa di tenere... Viva di la memoria, curare il passato e il futuro, secondo me, in un modo sano. Eccole qua, Ilaria Laise, buongiorno Ilaria e Cecilia. Ciao, eccoci. E ciao, Cecilia, buongiorno. Gnocchi, eccoci, Ilaria e Cecilia. Possiamo Ilaria e Cecilia, che sì, così certo. È sì. Anche perché non sai pronunciare il cognome, l'hai chiesto 11 no, volte, ma quindi... giusto, Laise. Laise, esatto. Abbiamo corretto ed è ecco. Giusto, è a posto. Allora, Ilaria e Cecilia fanno, non so, non potrei definire un lavoro, ditemi voi se è una passione, se è un dovere, se è un qualcosa che sentite, cioè restaurate le lapidi che purtroppo vengono, è incredibile questa cosa, anche nel weekend è successo a Milano, vengono sfregiate, vengono rotte. Io voglio pensare magari a degli stupidi giovinetti che pensano di fare delle cretinate così, non voglio pensare, non voglio andare oltre, ma su questo magari ne parliamo. E voi cosa fate? Restaurate queste lapidi. Sì, succede spessissimo. L'ultima che è stata rovinata, diciamo, e vandalizzata è quella di Ugo Zagaria in Maciacchini. Noi restauriamo le lapidi per passione e perché crediamo fortemente, appunto, che il futuro dipenda molto dal passato e quindi che sia importante preservare la memoria, soprattutto per quanto ci riguarda la memoria dei partigiani e della resistenza partigiana a Milano. Ecco, vi posso chiedere una cosa, come lo venite a sapere quando c'è una lapide che è rovinata, è rotta, è sporcata? Beh, di solito le ANPI mettono in giro, le ANPI che sono i responsabili delle lapidi della resistenza della loro zona, vi avviso. Promuovono insomma, la notizia attraverso i social o comunque già i giornali sono subito attivi su questo. Noi lo scopriamo attraverso di loro, se non siamo già in contatto diretto con le ANPI di certe zone che ce lo dicono direttamente. Ma vi chiedete, vi fate la domanda di chi possa esserci dietro questi sfregi? Sì, noi pensiamo che non siano atti vandalici e basta, cioè sono troppo mirati per essere atti vandalici. L'atto vandalico prende di mira qualsiasi cosa che appartiene al bene pubblico, una panchina, la cabina del telefono, che forse adesso non c'è più, quindi non possono più prendere di mira quella. E sono troppo mirati, tra l'altro poi queste cose accadono molto spesso vicino a delle ricorrenze. Adesso noi siamo tra la giornata della memoria e la giornata del ricordo. E questo è un modo per farsi vedere, insomma. Ci sono questi gruppi che sono sicuramente legati a qualche fazione politica che vogliono avere visibilità attraverso questi atti. Le targhe rimangono comunque simboli della nostra città, che è memoria. E voi che cosa fate proprio nella pratica? Andate, che capacità avete per rimettere a posto? Dunque, vediamo come sono messe, perché succede spesso che interveniamo dopo un vandalismo, oppure che le ANPI di zona vogliono proprio restaurarle perché il tempo le ha un po' manomesse. E quindi noi facciamo più o meno un check per vedere cosa manca, se è soltanto le epigrafe. Cioè, mettiamo il caso che siano proprio state rotte. Avete anche delle competenze dal punto di vista di restauro? Sì, le abbiamo acquisite per fare questo mestiere. Io sono di un altro restauro perché restauro la carta. Lei ha studiato tessile, esatto. Ilaria può dirlo meglio, il suo curriculum. Io ho fatto design tessile, quindi non c'entra proprio niente, però... Visto che siamo molto appassionate di storia, appunto, ci siamo ritrovate, incontrate un giorno dopo tanti anni, abbiamo detto: ok, cosa possiamo fare noi? La competenza che abbiamo è l'utilizzo delle mani, perché siamo due artigiani, è una dote, e quindi l'abbiamo messa appunto a disposizione di un valore in cui crediamo. Beh, cioè, è abbastanza incredibile. Tra l'altro, Mario, di recente questa vicenda ha coinvolto anche la tua famiglia, perché proprio qualche giorno fa, insomma, la lapide dell'anarchico Pinelli è stata, dopo poco tempo era stata messa, è stata vandalizzata, brutalizzata. Insomma, tu avete deciso come famiglia di portare un fiore. Ma che cosa significa quello sfregio, secondo te? È solo una rottura? Qual è il messaggio che si vorrebbe far passare con questo tipo di azioni? Non lo so. E io tendo, non lo so, nel senso che può essere ignoranza, essere beceri, volgarità, cioè potremmo dire tante cose, e secondo me non c'è tanta materia per un'analisi approfondita, nel senso che sono gesti che non hanno tanta materia dietro, mi verrebbe dire materia grigia, quindi non c'è tanto da analizzare. E infatti il gesto che poi ha fatto mia madre non è stato quello di polemizzare e ingrandire il valore di quel gesto vandalico, ma è stato andare totalmente da un'altra parte, dare un altro segno, metterci un fiore e poi sollecitare che il comune rimettesse la lapide corretta e aggiustata. C'è una foto che vedete anche su un cippo, più che una lapide, è dedicata a Sandro Pertini, no? Sì, nel parco Bonola, si chiama, sì, Bonola, esatto. Quel parco. Sì. Che significato ha per voi, insomma? Sandro Pertini, per esempio, è un personaggio considerato da tutti come tra i più amati, forse il presidente più amato da tutti gli italiani, no? Tutti lo ricordano. Sì, è così, ce ne siamo accorti anche mentre restauravamo quel cippo, perché la gente che passava era un po' rimane colpita dal fatto che noi ci spostiamo in periferia per pulire dei monumenti. Esatto. Che loro vedono tutti i giorni. Ma in questo caso era usurato dal tempo, era stato era usurato dal tempo. Poi io ogni tanto, perché appunto non mi sarei mai immaginato andare a fare qualcosa su nessuna lapide, ma di Sandro Pertini. E rispetto a questo cippo è successa anche una cosa molto carina, perché qualcuno aveva cercato di restaurarlo alla buona, nel senso con un pennarello. Sì, con l'Uniposca avevano ripassato l'epigrafe. Sì, perché era argentato, lo conosco bene, lo uso per disegnare. Non si leggeva più, quindi diciamo che le persone si affezionano anche tantissimo a questi piccoli monumenti di memoria. Però ci sono anche delle tendenze che sono più lunghe. Io ricordo, per esempio, c'è un monumento a Torino a Garibaldi, piuttosto che a Cavour, che vengono costantemente da sempre diciamo negli ultimi 30-40 anni rovinati, rotti. Quando ci furono i 150 anni dell'Unità d'Italia, vennero, la città di Torino li restaurò tutti, sono durati un anno e poi di nuovo sono stati deturpati. C'è anche chi, al di là di motivazioni ideologiche o politiche, l'atto vandalico verso qualche cosa che viene ritenuto istituzionale, che viene ritenuto delle istituzioni e quindi da sfregiare. C'è un carattere di questo tipo in sottofondo. Sì. Allora, dobbiamo un attimo sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo. 1, nessuno, 100 Milan. Eccoci qui alle 9:47 minuti, siamo con Ilaria Laise e Cecilia Gnocchi, che sono venute a trovarci. Loro per passione restaurano le lapidi, soprattutto dei partigiani quando vengono distrutte. Sono tante, sono più moderne questi atti vandalici? È un qualcosa che è aumentato negli anni? È un qualcosa che si è mantenuto abbastanza costante nel tempo? È qualcosa che è aumentato negli anni, sicuramente. Quindi ultimamente c'è da fare più interventi? Sì, bisogna averne un po' più cura. Da un anno all'altro sì, li abbiamo visti, non dico raddoppiare, ma... Sì, quasi. Ma in una città come Milano, quante, avete un'idea quante si possono essere le lapidi? Le lapidi dovrebbero essere circa 700. Sì, 800 i partigiani o comunque i caduti ricordati sulle steli. Alcune sono cumulative, quindi hanno più nomi, però sì, sono moltissime. Beh sì, effettivamente sono pochissime quelle delle donne. Ecco, l'ha detto ovviamente con un tono, eppure nonostante le donne abbiano fatto, come dire, abbiano avuto un ruolo fondamentale anche durante la resistenza, però e questa cosa cosa vi fa pensare? Beh, che Ilaria l'ha detto con un tono proprio innanzitutto non venivano chiamate partigiane ma staffette, e già questo fa intendere, insomma. E per questo motivo poi io e Cecilia avevamo un sogno che appunto abbiamo proposto a Didi Gnocchi di Memomì. Il sogno era quello di un monumento dedicato alle donne partigiane, e adesso... Percentualmente quante sono le stelle? Però credo che i morti partigiani uomini, visto che stai facendo questa distinzione, siano di più. Sì, certamente. Non sono soltanto di più i monumenti. Però forse sono di più i caduti, quelle che hanno combattuto. I caduti fucilati. Probabile, sì. Le stele delle donne sono 5 al Campo della Gloria e mi sembra 4 o 5 in giro per Milano. Sì, sì, non arriviamo a 10, ecco. A proposito di storia, ci ha chiamato, credo, Adil, è giusto, da Milano, buongiorno. Ecco, vedi, ci ha chiamato. Adil ci ha chiamato. Abbiamo in linea. No, Adil è in linea? No. Va bene, adesso lo recuperiamo. So che sarete anche protagoniste di un documentario su Sky Arte. Immagino vi avranno seguito nelle vostre... Sì, è stato divertentissimo perché ci hanno seguito e ci hanno anche ripreso con un drone. Per noi è stato veramente divertente. E siamo felici di questo. No, è stupendo, perché cioè io non saprei neanche da che parte iniziare restava una lapide. Cioè io mi immaginavo, non so, abbiamo studiato anni, siamo usciti dall'Accademia delle Belle Arti. Beh, no? Sì, io l'ho fatta. Ah, ecco appunto, ma non l'avete detto. Avete detto, quindi vedi, io per esempio che non so riparare un tubo, non saprei. Vabbè, eccolo, Adil, buongiorno. Buongiorno signor Milan, io tutti i giorni voglio avere il piacere di parlare con lei. Eccoci. Allora, tanto per dirti una cosa in milanese, io sono marocchino, sì. I miei amici italiani mi chiamano, ti sei informato come una legge, vuol dire che io seguo tutti gli eventi, soprattutto dei nostri paesi, Io sono marocchino, ma seguo soprattutto il caso Egitto, secondo me io ho più di 55 anni, mi stai sentendo? Sì, sì, sì, benissimo, vai. Io credo, dalla mia esperienza, dalla mia informazione, che la dittatura che c'è oggi nel mondo è la più feroce che c'è. Cioè in Egitto? Gli egiziani che lavorano, io faccio il cuoco, e in giro c'ho degli egiziani che fanno di tutto, hanno paura di parlare del loro paese anche vivendo qua. Vedi questo ragazzo che è andato, non sapeva niente, è andato in vacanza, è stato arrestato. Certo. L'Italia adesso ha parlato perché il ragazzo prima di tutto non è cittadino italiano e sarà dura che lo tirano fuori, perché sono stati arrestati anche gente che ha la cittadinanza americana per delle stupidate, sono lì, uno è anche morto dentro in carcere, mi stai sentendo? Sì, sì, sì, no, poi c'è un altro caso molto più grave, perché l'Egitto veramente altro che Pinochet, altro che Bolivia, lo dico, io sono marocchino, mi interessa. Abbiamo avuto il nostro dittatore Hassan II negli anni 70-80, ma lì sì, se li batti tutti, ma tutti. Va bene. Un giornalista egiziano, Adil, che era il più moderato del mondo, è andato a fare la vacanza, sì. L'hanno arrestato e nel carcere senza processo da 3 anni. Insomma, si chiama Mohammed Musa. Grazie Adil, allora vedi Mario, quello che si diceva prima, io ho recuperato quelle che sono le accuse di cui deve rispondere questo Patrick Giorzacchi e sono incitamento a sovvertire il sistema politico promuovendo pensieri, promuovendo pensieri che mirano a cambiare i principi costituzionali, cioè come se fosse un reato promuovere dei pensieri per cambiare la Costituzione, incitare le proteste non autorizzate con l'obiettivo di indebolire il prestigio dello Stato e gestire, questa è un'accusa, gestire un account Facebook con lo scopo di disturbare l'ordine pubblico. Cioè, può sembrare incredibile, ma insomma sono tutto questo per aver scritto delle idee. Sono in carcere per questo. Sì, certo, delle idee su Facebook. Cioè, questo sta succedendo a questo ragazzo. Mi sembra una roba incredibile, ma questo è. Fausto da Modena, buongiorno Fausto. Buongiorno, salve. Sì. Io vengo da Modena appunto e è molto bello il lavoro che stanno facendo le due ragazze sulle lapidi e mi congratulo con loro. Per quanto riguarda l'AMPI però volevo ricordare solamente che molte volte le lapidi vanno sì pulite e mantenute, ma dovrebbero non anche essere tolte. Ricordo l'ultimo caso di Fabrizio Quattrocchi che mi ha molto colpito. Vedere l'AMPI appunto che per un cavillo burocratico ha tirato giù la lapide a Fabrizio Quattrocchi, che non faceva parte del nostro esercito, ma no, sì, certo. Bensì una guardia privata. Però la frase che ha detto prima di morire penso che tutti se la ricordino e sì, bisognerebbe onorarlo. Vi faccio ecco. Vedere come muore un italiano in Iraq. Va bene, Fausto, grazie per il suo intervento. Vi giro la foto che ci proviene da Mantova, la lapide dedicata a Giuseppina Rippa a Mantova, il nostro ascoltatore insomma manda una lapide, quindi ci sono molto bella, può annerita, andrebbe pulita, esatto. Andrebbe pulita, attenzione, sono pronte per partire per Mantova perché in via Principe Amedeo c'è una lapide, effettivamente dalla foto dell'ascoltatore è un po' annerita, noi abbiamo una stupenda pagina Facebook che si chiama RAM, Restauro ecco. Arte Memoria, RAM, RAM, che non è una memoria del computer, ma RAM, non è la RAM, ma... però l'abbiamo pensata proprio, certo. Così. Allora, quindi trovate Ilaria e Cecilia attraverso questa pagina, sì, RAM. Ci sono le foto di tutti i nostri restauri. RAM, bene. Care ragazze, grazie per essere state con noi. È stato un piacere. Mario Calabresi, grazie. Sei dissequestrato ufficialmente. Sapete che è qui da venerdì. Veramente? Sì. Cioè, non l'abbiamo chiuso dentro, era qua venerdì, poi l'abbiamo chiuso. È rimasto il weekend e è tornato. Poi sei libero, ne ha facoltà. Grazie. Mario Calabresi ne ha facoltà. Iscrivetevi. Fai un bel appello, dai, vediamo quanti ne arrivano. No. Ma se lo fai tu, vale di più. La newsletter di Mario Calabresi. Mario Calabresi. Calabresi.it, mariocalabresi.com. Potete e dovete anche dire se vi piace più il passato o il futuro. E poi dal 21 febbraio avrete le sue storie. Dal 21 febbraio mi tocca scrivere. Dal 21 febbraio, scrivilo un po' prima. Dai. Grazie, anche Lara Cecilia. Grazie. Ci vediamo. Grazie. 1 Nessuno 100 Milan. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I leave it all. Milan, una cosa che devi abolire è proprio il Milan, guarda un po', guarda. Scusa Milan, ho visto solo il primo tempo ieri, è andata bene allora. Mamma. Che polemici. Vabbè, ragazzi. Leonardo Manera, ma guarda, talmente polemici che mi dicono: ma scusate, oggi è il giorno del ricordo, non ne avete detto neanche una parola? Ne abbiamo parlato per 5 minuti buoni con Mario Calabresi, delle foibe. Cioè, proprio la gente ormai neanche ascolta e sono come quelli che ti suonano il clacson anche se è rosso al semaforo. Come faccio io? Esatto. Anche io se è rosso, parti! Parti, ma è rosso. Io lo faccio per dare un senso alla mia giornata. Cosa ho fatto oggi? Ho suonato il clacson e qui mi accontento di poco. Questo qua ha mandato un messaggio dicendo che non abbiamo parlato delle foibe, ne abbiamo parlato 5 minuti. Vergognatevi! Erano i 5 minuti iniziali in cui lui era in altra faccenda affaccendato. Era le 9:30. Ah, poi se tu gli dici, abbiamo parlato, non ho sentito, e allora cosa minchia scrivi? Mamma, che polemico che sei anche tu. No, io ho perso il derby e quindi sono nervoso, loro sono polemici. Allora, Leonardo Vestaglione Manera, eccolo, sono qui qua. Nonostante sarebbe meglio rimanere a casa a fare lo smart working. Ne parliamo tra poco. Parliamo, perché è giusto così, da casa non si inquina, si rende di più, si rende meglio. Io non so come fare, perché tra poco avremo un ospite che è il trionfo di Leonardo Manera. Nel senso che apprezza lo smart working da casa, il telelavoro. Telelavoro. Sì. Però, va bene. Però prima. Allora, il virus più chiacchierato e più infettivo del momento pare si sia esaurito. No. Sì. Ma quale? È finito. È giunto alla conclusione in Sanremo Virus. Quello che per una settimana intera e con alto tasso di contagio ha preso di mira gran parte degli italiani. Si era cominciato a parlarne qualche mese fa, poi c'era stato un picco virale in coincidenza con la conferenza stampa di uno degli untori principali, Amadeus, e poi era esploso definitivamente una settimana fa, producendo effetti collaterali per tutta la settimana. Adesso il picco è passato, ma qua e là se ne vedono ancora gli effetti e a quanto pare l'anno prossimo si ripresenterà con le medesime caratteristiche. Insomma, non è uno di quei virus che una volta che l'hai conosciuto poi diventi immune. Il Festival di Sanremo, essendo simile ma non identico anno dopo anno, non permette mai di immunizzarsi completamente. A febbraio, proprio quando i virus invernali trovano l'esposizione maggiore, anche il Sanremo virus trova modo di dare il meglio e il peggio di sé. Quest'anno riuscendo perfino in parte a oscurare il coronavirus, del quale in questi giorni si è parlato un filino meno. Insomma, anche il coronavirus è sembrato meno grave in confronto a Bugo, che abbandona il palco. E qui vengo al succo del discorso. Ora, sarà sicuramente colpa mia, ma io fino a questo Sanremo virus il signor Bugo non lo conoscevo. Conoscevo altri untori del festival, anche di quelli passati, come ad esempio Michele Zarrillo, che ormai del virus è però un portatore sano e nemmeno troppo infettivo, nel senso che non riesce più a catalizzare troppo l'attenzione. Invece il signor Bugo, sul quale ci si è prodigati in battute e giochi di parole evitabili, il signor Bugo ha oscurato in pochi attimi quello di cui si era parlato per mesi: il presunto ribaltone dei 5 Stelle, le polemiche sui processi a Salvini, le dimissioni di Di Maio da capo politico dei 5 Stelle. Il signor Bugo, con quella sua semplice uscita di scena mentre il suo compare Morgan cantava, ecco, Bugo ha cancellato con quell'uscita di scena tutto l'interesse per gli altri eventi che nei mesi precedenti scaldavano il cuore dei media e forse anche degli italiani. E questo porta a due considerazioni. La prima è che probabilmente tutti gli altri eventi non erano poi così fondamentali, visto che il signor Bugo in pochi attimi è riuscito a oscurarli. La seconda è che Bugo è diventato una risorsa, una riserva della Repubblica Italiana. Nel senso che, qualora fosse necessario mettere in secondo piano situazioni che stanno diventando, agli occhi dell'opinione pubblica, troppo scottanti, basterà contattare Bugo per sviare l'attenzione. Ad esempio, si vuole fare un prelievo forzato sui conti correnti degli italiani per alleviare il peso del debito pubblico? Non c'è problema. Basta spingere Bugo a compiere qualcosa di imprevisto e il gioco è fatto. Ma non solo in Italia. Bugo può essere... Bugo può essere utilizzato anche per moderare la crisi tra Iran e Stati Uniti, per raffreddare le polemiche sui dazi e per mantenere viva la tregua tra le varie fazioni libiche. Libiche, non libiche, come Bugo. Bugo è risorsa vera e in questo dobbiamo essere grati a Morgan, che in qualità di mediatore ce l'ha fatto conoscere. Io personalmente lo contatterò in caso di necessità, se avrò problemi sentimentali. Se qualche mia eventuale fidanzata comincerà a sollevare troppe lamentele nei miei confronti, se comincerà a essere troppo insoddisfatta di me, contatterò Bugo e lo inviterò a compiere qualcosa di imprevisto e imprevedibile. Sono sicuro che... Sono sicuro che la mia fidanzata, concentrandosi su Bugo, non noterà più le mie mancanze e potrò proseguire con più serenità il rapporto. Insomma, lo ribadisco, questo festival non ci avrà forse riservato canzoni memorabili, ma ci ha fatto conoscere un nuovo signor Wolf, che forse non risolve problemi, ma almeno ci permette di non vederli e sentirli più, almeno fino a quando dura il Sanremo virus. Quindi, viva Bugo! Allora, guarda qua che ti hanno visto al TG4. Manera, sei andato al TG4. Sì, un attimo. Al TG4. Come sta Emilio Fede? Ah no, nel senso... Emilio Fede, sai che non ho mai conosciuto. L'ho visto una volta ad una festa, così, di passaggio. Scusate, ho visto in TV al TG4 Manera. Non l'avevo mai visto di persona, solo la sua bella voce sentivo. Ma lui, poverino, è proprio bruttino. Ma... Non è vero. Ascoltatore, ma no, ma no. È un bel fiore. Mi hanno detto che sono bello. Poi dice: poi non è bello ciò che è bello ciò che piace. Questa è un'ascoltatrice, non lo so, o un ascoltatore. Nel mio condominio dove abito io sono uno dei più belli, ma la bellezza è una cosa che ti capita. Poi devi saperla gestire, altrimenti rischi di inciampare nella tua bellezza. Io cerco di non inciampare nella mia bellezza. Ehi, ma è carino Leonardo Manera. Ho visto la sua foto su Google, ha una faccia che fa ridere. Grazie, è un grande complimento. Non è questo. Proprio la stessa cosa. Comunque un grande complimento. Vabbè. Allora, devo dire effettivamente, ragazzi, è stato il momento più grande, più alto del festival. Morgan e Bugo. Soprattutto il finto stupore di Morgan, che prima gli ha detto di tutto sul palco cambiando il testo. Poi esce Bugo e dice: Bugo? No? Ma dove va? Che succede? Come mai? Perché? Che succede? Bugo, dove sei andato? E fa finta di andare a cercarlo come se avesse avuto un improvviso, non so, attacco di dissenteria. Ieri sera hanno fatto delle prove, poi hanno fatto una cosa diversa. Sito, dai, devo ancora rompere palle, basta, dai. Comunque posso dire che ormai saper cantare non conta più nulla. Ragazzi, io ho sentito Morgan, che è sicuramente un bravissimo musicista, ma dal punto di vista vocale non ce l'ha proprio più la voce. L'altra sera, sabato, quando sono tornato, ero a lavorare a Modena, sono rientrato in hotel e c'era poi Biagio Antonacci che cantava. Sì. Ma Biagio Antonacci non riesce a salire mai di un acuto. Dai, Biagio a me piace. Anche a me, dico, ma vocalmente fa un po' fatica Biagio Antonacci. Quando deve fare un acuto o lo fa fare al pubblico? Tutti insieme! Tutti insieme! Siamo qui veramente come il peggio del peggio degli italiani a vedere Sanremo per stroncare vestiti, no, invece non è voci. Vero. Sabato abbiamo fatto una serata molto utile e benefica. Sì, si fanno anche cose. E stroncavate Sanremo. No, dopo rientrando in hotel. Va bene, va bene. Va bene, dai, andiamo un attimo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, io direi che dopo l'iniziativa Abbraccia un cinese della settimana scorsa, a questo punto anche l'iniziativa Abbraccia un milanista forse sarebbe il caso di farla, perché ci starebbe tutta. Dai ragazzi, però basta con questa cosa. Vabbè, avete vinto il derby, ma non vi capitava dal girone d'andata? Ma vediamo l'aspetto adesso, positivo. Abbiamo fatto due gol alla futura squadra campione d'Italia. Ma esatto, quindi, cioè, voi siete campioni d'Italia e noi abbiamo fatto due gol, ecco. Vabbè, che mestizia. C'è Elisa che ci chiama da Roma. Buongiorno Elisa. Buongiorno, che complimenti per tutto, è inutile dirlo. Grazie. Allora, sì, io so che avete passato 5 minuti a parlare delle foibe e grazie. Sì, sì. E stamattina mi sono arrivati prestissimo 2 o 3 messaggi da miei conoscenti, amici, mi dicevano: ma lo sai che stasera sulla Rai il giorno del ricordo delle foibe verrà mandato in onda alle 23:35? Insomma, a un certo punto. Ma che cosa verrà mandato in onda? Un documentario? Ricordo delle foglie, dalle 23:35. Allora dico, siccome siamo in un momento dove si parla sempre di odio, però queste cose veramente fanno male, perché noi siamo tutti veramente addolorati per quello che è successo agli ebrei, no? Ma se ne parla tantissimo. E lei dice bene. C'è uno squilibrio. Uno squilibrio enorme. Mm-hmm. Va bene. E quindi uno poi si chiede tante cose che lei ben immagina, come mai questo succede? Grazie, lei è un uomo fantastico. No, adesso non esageri, perché sennò la metto in contatto ironico, con tutti quelli che mi insultano. Non hai capito che c'era dell'ironia in questo lei. Voglio pensare di no. No, io voglio pensare di no. Poi è riattaccato e ha detto: ci ha creduto. Va bene, signori, adesso dispiace, ma nei prossimi minuti con l'ospite dovremo dare ragione a Leonardo Manera. Allora, saluto Arianna Visentini, buongiorno. Ciao, buongiorno Arianna. Buongiorno a tutti. Allora, Arianna è presidente di Variazioni, che è la prima società in Italia specializzata nella consulenza alle aziende che si organizzano e si riorganizzano in chiave smart. Insomma, avete capito, questa parola, a parte che smart working, cioè ce l'abbiamo in italiano, lavoro a casa, che è telelavoro, come l'abbiamo detto? Ma forse no, smart working è un po' diverso solo da telelavoro, ha un significato più ampio, no? Smart, no. Vabbè. Arianna, che vuol dire smart working? Dobbiamo stare leggermente attenti, nel senso che il telelavoro, che non ha avuto un grandissimo successo in Italia, aveva un carico amministrativo esagerato e quindi l'azienda doveva, ad esempio, avrebbe dovuto andare a casa di Leonardo Manera e controllare l'adeguatezza e la messa in sicurezza della sua postazione. Bene, vede che non gli stiamo dando ragione tantissimo. Allora, aspetta, adesso c'è l'evoluzione. Esatto. Fortunatamente dal 2017 abbiamo una nuova legge, che è la legge sul lavoro agile. Quindi in italiano la possiamo battezzarlo, chiamarlo con la terminologia lavoro agile, che significa che il lavoratore può scegliere il luogo e l'orario da cui lavorare, da cui si sente più produttivo. Allora, adesso al di là delle battute, Arianna Visentini, insomma, ne ha parlato anche con l'ha illustrata anche con il ministro Bonetti, ministro della funzione pubblica. Insomma, ci sono dei dati molto interessanti su come lo smart working sia benefico dal punto di vista della produttività e anche dei guadagni. Come li concretizziamo questi dati? Allora, noi stiamo seguendo diverse aziende da diversi anni, e quindi i vari questionari, anche indagini che abbiamo fatto attraverso i gestionali aziendali, ci restituiscono in effetti dei vantaggi distribuiti sia sulle persone che sulle aziende, che si traducono in chilometri risparmiati. Quindi noi passiamo in auto tantissimo del nostro tempo, una media di 90 minuti al giorno. Okay. Quindi tempo e inquinamento tempo. Anche. Tempo e anche inquinamento. E inquinamento, se dovessimo fare più o meno 3-4 giorni al mese in smart working, la CO2 che non emettiamo verrebbe assorbita da circa 18 alberi. È come se ciascuno di noi piantasse 18 alberi all'anno. Ripetiamo bene questo dato, no? A beneficio di Leonardo Lentopede Manera: 3-4 esatto. giorni al mese, un giorno alla settimana, 3-4 giorni al mese, capito? 3-4 giorni. No, è chiaro che questa è un'indicazione di massima. Le banche ad esempio arrivano anche a riconoscere, quindi a inserire nell'accordo fino a 8-10 giorni al mese. Chiaramente nelle aziende manifatturiere questi giorni sono molti meno. Sì, Leonardo, certo. A mio avviso ha una tipologia di prestazione che potrebbe tranquillamente casa, essere fatta prevalentemente. Guardi, la ringrazio e condivido in toto questa può sua starsene teoria. In vestaglia questo. Ma è vero, i lavori che necessitano solo magari di un computer o di un telefono possono essere tranquillamente fatte a casa, ma questo ha qualche impatto invece sulla vita sociale. Senti, delle persone, come si è rinvigorito, come... Ecco. Sì, certo che, che vivete barricati, no, voglio sapere come se ha un eremiti. Impatto positivo o negativo, sì, sulla vita sociale e sullo stato d'animo di chi ne usufruisce. No, questa è una bella domanda, perché tra gli svantaggi che noi registriamo, quindi noi abbiamo la domanda: che svantaggi percepisci? C'è questo retaggio per cui il lavoro agile sterilizza le relazioni tra le persone, come se la convivenza in ufficio con le stesse persone per anni ci avesse, fosse stato fino ad oggi, garanzia di qualità delle relazioni. Quindi sfattiamo anche questo mito. Sì. La relazione anche in ufficio ne beneficia, perché chiaramente si raggiunge l'ufficio quando è importante fare delle riunioni, quando è importante confrontarsi su cose specifiche, mentre si sceglie di lavorare da casa o da un co-working quando si vuole essere ad esempio più concentrati. Sì, Marianna, se anche lei avesse detto che inficia negativamente sulle relazioni sociali, questo a Manera andrebbe benissimo, cioè, perché è un orso bruno che punta all'eremitismo e al diventare uomo barricato, quindi senza nessun tipo di relazione sociale. È una sua concezione della qualità delle relazioni, esatto. D'altra parte ciascuno ha la sua. Diciamo che in ogni caso, al di là dei vantaggi delle persone, anche Radio 24 ne beneficerebbe, perché immagino che comunque a Leonardo Manera bisognerà rimborsare qualche spesa di viaggio. No, mi rimborsano nulla in questo. Per carità, per carità. Però mi ha dato una buona idea. Non mettiamogli in mente delle idee strane. No, la questione è questa, però è interessante. Sì, il beneficio della produttività, cioè il lavoratore che lavora in condizioni di smart working ed è più produttivo. Questo l'abbiamo detto mille volte. C'è sempre quest'idea un po' vetusta delle aziende di fare il ruolo del carabiniere, no? Che ti devono vedere qua tot ore al giorno, se non sei qui vuol dire che non stai lavorando. Esatto, che è un'equazione. Che a volte è vero, ma a volte insomma. No? Allora, diciamo che il tema è che non abbiamo grandissimi strumenti neanche per dimostrare che chi è in ufficio sta producendo. Questo è il paradosso del lavoro agile, che stiamo cercando di dimostrare quanto siamo produttivi a distanza, perché siamo motivati ad apprendere anche l'utilizzo delle tecnologie. Cerchiamo di dimostrare che siamo più produttivi, quindi mandiamo il rendiconto del nostro lavoro, chiariamo gli obiettivi, ci coordiniamo, comunichiamo meglio. Il problema è che non c'è questa altrettanto alta attenzione a dimostrare che quando siamo in ufficio lavoriamo. Basta avere un monitor davanti ed è molto semplice fingere di lavorare. Certo. La vera domanda è questa: quanto ha pagato Manera la vostra ospite per dire che lui può lavorare in vestaglia? Ditelo con maiuscola. Io dico anzi invece che a volte essere in ufficio è un alibi. Se ci sono in ufficio sto lavorando, esatto. Invece in realtà stai facendo tutt'altro, stai chattando con qualcuno, no? A volte succede. Sì, no, poi insomma, questa cosa che Leonardo viene un po', diciamo, consentitemi il termine, bullizzato, sì, questo è vero. Invece sì, no, sì, doveva avere una dovevamo trovargli invece una spiegazione e va difesa in effetti questa modalità di lavoro, che non è soltanto una modalità di lavoro che consente di conciliare questo. Niente. È anche un po' il salto di qualità e la svolta. È incredibile, non bastava il derby ieri sera per farmi passare un lunedì così, no. ma anche dei dati che confermano che Leonardo Manera può essere più produttivo da casa. Mi sembra di capire che adesso è di uso comune in tantissime aziende smart working. Ma arrivano diversi messaggi. Nella mia azienda informatica per le banche di Padova ho introdotto i lavori agili da circa 2 anni. Mia figlia, un altro messaggio, neo mamma, grazie al suo lavoro può lavorare da casa anche nel periodo di astensione volontaria post parto, con enormi vantaggi in termini di tempi e risorse economiche. Adesso al di là degli scherzi, Arianna Visentini, è davvero il futuro del lavoro sempre più, come dire, commisurato tra presenza sul posto e anche smart, per l'appunto? Allora, diciamo che l'evoluzione, la rivoluzione tecnologica ci sta inevitabilmente portando verso un modo nuovo di lavorare, quindi il tema è: o subiamo quello che questa rivoluzione ci sta in qualche modo portando, oppure lo governiamo. Governarlo vuol dire rendersi conto che possiamo trarne vantaggio come azienda, come anche modello manageriale, che è un manager che sa motivare le persone, che le rende produttive, che non le costringe a stare sempre nello stesso ufficio, nella stessa postazione, che le coordina, che è in grado di dare loro degli obiettivi chiari. Questo ovviamente è un cambiamento importante che ci deve riguardare tutti, che riguarda le aziende e che, a prescindere dal lavoro agile, è sì un percorso inevitabile. Il lavoro agile ci aiuta a favorire questo processo di cambiamento. Va bene, qua non ho capito un messaggio: a casa bisogna resistere al richiamo della lavatrice. Cos'è? È una cosa che tu non, Leonardo, non... L'ho fatta ieri sera la lavatrice. Cos'è il richiamo? Cioè che uno a un certo punto dice: devo fare una lavatrice? E che sei tentato da tutte le attività quotidiane che hai a casa tua, piuttosto che lavorare. Beh sì, effettivamente. Va bene, sì, però questo sì, è un po' il rischio. Un tema un po' di genere, va fatta attenzione che appunto non diventi uno strumento per fare 1500 cose rispetto alle mille che già facciamo. In realtà comunque le indagini ci confermano che è equamente utilizzato da uomini e donne, quindi anche in questo caso spattiamo un altro luogo comune, che lo smart working è solo uno strumento di conciliazione. Non è così. Niente, è uno strumento di efficienza. Io le ho provate in tutti i modi. Guarda, possiamo isolare questa frase: lo smart working è uno strumento di efficienza. Sì, esatto. Lo so, ci ho provato in tutti i modi, ma Arianna Visentini conferma in toto. Grazie, io la ringrazio comunque, presidente di Variazioni. E con lei, nel senso, andiamo alla voce. C'è per caso qualcos'altro da aggiungere? Non vedo nessuno in regia, quindi c'è nessuno in regia. No, per me no. Oggi le borse non vedo interisti, non vedo nulla. Sono chiuse oggi le borse. Qua c'è Mauro Meazza, siamo qua in quattro gatti, sottolinea il 4, non capisco. Vabbè, io l'ho già detto, cosa bisogna prendere di questa partita. Che cosa? L'aspetto positivo, sì. Cioè, bisogna puntare al cambiamento di regolamento perché le partite finiscano al 45esimo, per esempio. Io avrei così avremmo una Coppa dei Campioni in più a Istanbul, avremmo... Cioè, e così. È lo smart football. È lo smart. Comunque complimenti veramente, perché insomma uno scudetto strameritato, avete vinto 2 derby, scudetto in tasca, interisti, bravi. Dai che lo scudetto almeno torna a Milano, via. È l'aspetto positivo. Finalmente. Vediamo come hanno aperto le borse con lo scudetto dell'Inter. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, allora sarebbe da dire a tutte le aziende di iniziare a creare il lavoro a chilometro zero, assumere le persone che abitano vicino all'attività, da evitare così che prendano la macchina e facciano tanti chilometri. Caro Manera, credo che per farti venire sempre al lavoro in orario ti serve una fidanzata come quella di Ronaldo, perché per mantenerla si vuole, bisogna lavorare e lavorare tanto. Ma questa... Ma Ronaldo non deve mantenere la sua fidanzata. Se Giorgina, con la sua, a parte che le ha devoluto in beneficenza quello che ha guadagnato a Sanremo, ma poi credo che lei sia anche una conduttrice in Portogallo, se non sbaglio, no? Conduttrice. Guarda, adesso non chiedermi Giorgina. Giorgina, come si chiama di cognome? Rodriguez? No, sì, Giorgina Rodriguez. No, dai, adesso chiedermi la carriera di Giorgina. Sì, no, ho letto che lei in Portogallo fa la conduttrice, sì. Giorgina. Sì. E va bene, quindi... se lo dici tu io mi fido ciecamente. Guarda qua, arriva un messaggio, ma non so se è un messaggio o se è Elisabetta Fusconi. Per esempio, ecco, ma ce l'abbiamo adesso noi la soluzione? Ma certo, lo smart working per non avere più Elisabetta Fusconi in redazione, in studio. È caduta una penna. Hai detto questa cosa? È caduta una penna. Cioè, potrebbe essere la soluzione. La mandiamo. Le prendiamo un monolocale a Chiasso. Stavo dicendo anch'io. Le prendiamo un monolocale a Chiasso. Mm-hmm. La mettiamo lì, tranquilla, fa le sue cose. In Canton Ticino, vieni su da lì. Poi ogni tanto ci manda delle mail. Guarda, con aggiornamenti degli ospiti e tutto. Allora, intanto sarei la prima ad abolire delle riunioni inutili e l'ho già di fatto fatto. Puoi testimoniarlo. Va bene. Io non sono così favorevole allo smart working, scusami, perché? Leo. Perché procura del decadimento personale. Ah, ma secondo non è me... che devi stare tutto il giorno, dai, tutta la vita, dai, vai una volta a casa, me, una volta a casa al lavoro, è dai. Spinto a docciarsi molto poco. Vabbè, e la donna dai. Si mette in tuta cetata. Vabbè, dai, guardi, ma non parliamo così tutti. Cos'è sto luogo comune? Non è che stai tutto il giorno a casa, vai a fare delle gite anche a Como, Monti Olimpino, dai. In Valmaggia. Dipende dalla meteo, dai, su. Guardi, allora, te prendi il Natel, vai, guardi la meteo e vai. Sapete cos'è di moda adesso in Ticino? Che cosa? Dire ti faccio un telefono. Ti faccio un telefono. Che significa ti chiamo più tardi. Sì, questo l'avevo intuito. Okay. Grazie. Ti faccio un telefono, dai. Dai, ti faccio un telefono. Com'è il Natel? Dammi il Natel, dai. Comunque io sono favorevole allo smart working, ma con la promessa anche scritta che una doccia deve avvenire e tu donna comunque non ti devi imbruttire a stare in tuta da ginnastica, ecco. Va bene. Ok, quindi comunque non, qua non, possiamo, non c'è lo smart working, quindi sei destinato a vedere il mio faccino ancora a lungo. No. Quindi non possiamo mandarti in un monolocale a Chiasso. Vabbè, niente. Cara Elisabetta Fusconi, allora torna a lavorare in redazione. Sai, adesso mi è sovvenuto un episodio di un mio spettacolo che feci tanti anni fa. Ma perché aspetta, perché non torni qui? Dobbiamo istituire con Elisabetta Fusconi i lunedì calcistici. No? Sapete che lei è molto amante del calcio. Per esempio, no, lo sapevo, no, me ne vado. Per esempio, me ne sto in già che andando. Squadra? In che squadra gioca? Non so, Dybala. Dybala. Ma è evidente, non ne ho idea. Perché mi devi umiliare? Mentre non so, Ibrahimovic. In una squadra famosa di quelle. Dai, posso andare. Ma lei sa tutto del Lugano. No, il Lugano, ma sai che Gennaro Gattuso è stato anche allenatore del Lugano, dai. È un mondo che fieramente ignoro e con questo mi congedo. L'allenatore dell'Inter. Ma non li so, ma non mi importa, dai, sogno un mondo senza calcio. Ti aiutiamo, fa ogni tanto anche il premio. Io sogno che lo sport nazionale diventi il curling in Italia. Dai, l'allenatore dell'Inter ci può arrivare, ogni tanto fa il premio. Conte, certo. Conte, brava, Conte! Grande, vabbè, niente, i lunedì calcistici di Elisabetta Fusconi. Allora, dicevi Leonardo? No, che mi è sovvenuto, ricordo un episodio di uno spettacolo che feci a Lugano, visto che parlavamo di Lugano, al Dancing L'Ora X di Lugano. Urca. Tanti anni fa, era il nome è un po' inquietante. L'Ora X era un night, praticamente. Com'è andata? Allora, era un night. L'organizzatore aveva. Qui ci sta la base amara, perché è veramente un episodio amarissimo questo. L'organizzatore aveva organizzato questo spettacolo con diversi comici al Dancing L'Ora X di Lugano, che era un night con delle entrepreneurs dove si faceva anche un po' di spettacolo. Eravamo 5 o 6. L'organizzatore ci aveva detto: guarda ragazzi, non vi posso pagare tanto, ma vi posso dare 80.000 lire a testa. Però comunque è uno spettacolo, è una vetrina, perché si dice sempre così, no? Quando non ci sono soldi, è una vetrina, ti fai vedere. Va bene, abbiamo fatto lo spettacolo, 80.000 lire a testa, abbiamo guadagnato. E poi ci ha detto l'organizzatore, no, aspetta, l'organizzatore ci ha detto: dai, andiamo adesso tutti a bere qualcosa in un locale qua vicino di un mio amico. Allora, Economia circolare. Esatto, qualsiasi cosa noi prendessimo, io avevo preso una focaccina, una birra, l'avevo pagata 80.000 lire. Quindi, io sottoporrei questo episodio ad Anacleto. Anacleto, ma tu ti rendi conto che crollo? Il re dei crolli. Mamma mia, eh. Buongiorno, buongiorno. Questo qui è un altro, non ha limiti. Mamma mia, ma come fa a venire così? Abbiate pazienza. Io a questa ci credo. Cioè, gli ha dato 80.000 lire. Andiamo, sì, a bere una cosa. Le, sì, con track 80.000 che rientra. Appunto, è un'economia circolare, da una parte entrano e da una parte bisogna ributtarceli, no? Accidenti a voi, ragazzi. È una bella squadra, Milan. Complimenti. Mia, ma anche te, cioè, porca. Io c'ero sabato a vederla, piangevo. Mi veniva a mettere Belozzo, accidenti a lui, tutto va bene, via. Vabbè. Senti, come state, ragazzi? Bene. A marzo vengo, sono già d'accordo con un mio amico. Ho già preparato il libro, lo sto finendo di leggere. Già in due vengono questi, in due, mamma mia. Sì, ma è un mio amico, è uno di scuderia, non c'è problemi, potete stare ma tranquilli. Ma tu il calcio lo segui, Anacleto? Sei un po'... Il calcio io? Ho fatto 600 partite io. No, capito, ma che squadra tieni? Che squadra tieni? Bella Fiorentina, perché dove tenga io? Fra domenica ti pettina a Firenze. Sabato eri a vederla. Ma non era a vedere Fiorentina-Atalanta con Fiorentini, con la Fiesole, che è uno spettacolo. È la curva più bella del mondo. Avete il presidente più bello del mondo, secondo me. Però dallo stadio Franchi si vede male, perché la pista di atletica è molto lontano dal campo. Ma te che non viene a Firenze? Ma no, ma infatti non c'è più la visa. Ah, non c'è più. Ora io no. Secondo me c'è ancora. Io dico che c'è ancora. Ma che gli devi dire questo? C'è la pista, si vede male dal Franchi. Ma sì, no, tutti lo sanno. Ma lì giocava Antognoni. Ma perché l'hanno rifatto? Maria. Non è più il vecchio Franchi? No, lì gli dai le pacche ai giocatori che battano il fallo. Se vengono lì sotto, gli dai una pacca. E lì il campo si vede benissimo. Ti volevo dire una cosa ora. Perché so che siete in ballo se Manera per due spettacoli dall'autunno prossimo. Sì. O fate avanti un altro al posto di Bonolis e il maestro Laurenti, sì? O oppure no. Sanremo. Perché sì. Sanremo, certo. Il comico c'è. È comico, cioè, e te, stupendo. Invitiamo a cantare, invitiamo Anacleto e la sua truppa. No, facciamo un'edizione che oltre il Mozambico. Ciao Anacleto, ciao. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, Rosanna Ravenna, buongiorno Rosanna. Buongiorno. Che ci vuol dire? Buongiorno anche a Milan, buongiorno anche a Manera. Buongiorno. Certo. Ascolta Manera, voglio dirti una cosa. Con la barba non mi piace. Con la barba. C'avevi la barba, ieri al TG4. Ma così come ce l'ho oggi. La barbetta, dai, vabbè. Non cos'è quella barbetta che avete tutti? Ho capito, Rosanna. Sembrate caprette che andate a brucare. Che dobbiamo fare? Rosanna. La signora vende rasoi, abbiamo capito. Una venditrice di rasoi. Che ci vuol dire, volevo Rosanna? Dire solamente una cosa. Su Sanremo, il più bel arrangiamento che ho sentito è stato quello di Morselli. Sì. Quando Fiorello ha cantato quando. Cioè quindi... E anche un altro bel arrangiamento è stato quello di Raffaele Gualassi, del suo brano, che si sono sentiti i fiati. E nel razzo è stato, il resto è stato tutta una robaccia. Vabbè, Rosanna, questo è il suo giudizio, insomma, il giudizio di Sanremo di Rosanna da Ravenna, grande. Beh, anche la canzone quando è storica, insomma, sì, delle canzoni storiche. Demo Morselli è anche un grande, insomma, arrangiatore. Demo Rosanna, la salutiamo. Demo. No, ma sapete perché? Andiamo un po' di fretta. Allora, siccome è venuto a trovarci il super sovranista, il signor Garosio, dopo è uno di quelli che ci attacca il pippone. Allora, io non l'ho interrotta mentre stava parlando lei. Eccola. Lei gentilmente non mi interrompa, altrimenti io abbandono lo studio. Ecco, abbandono lo studio. Beh, sono Geppo Garosio, sono fuoriuscito dalla Lega. Signor Geppo, cosa ne pensa di qui? Che bello questo maglione. Allora. Ha vestito anche bene. Allora, io non l'ho interrotta. Infatti, abbandono lo studio. Buonista. Allora, perché sono venuto? Sono uscito dalla Lega perché la Lega è un partito troppo moderato. Salvini, ad esempio, cosa dice degli extracomunitari? Cosa dice? Aiutiamoli a casa loro. Sì. Io non condivido, perché è mai venuto qualcuno ad aiutarmi a casa mia? Qualcuno che mi viene a dire: signor Garosio, vuole una mano a mettere i piatti in lavastoviglie? Uh-huh. Oppure vuole che le metta io le mensole? Non mi pare. E allora non vedo perché dovrei aiutarli io a casa loro. Ecco. Allora, ho fondato il mio partito, sì. Partito Super Sovranista Italiano, PSSIPSI. Ho fatto anche l'inno, pissi anche tu, vota pissi anche tu, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più, pa. Allora, noi per finanziarci vendiamo il nostro dizionario super sovranista italiano, che si chiama il Non Zingaretti della lingua italiana. Non Zingaretti. Certo, perché di Zingaretti ce n'è già fin troppo in Italia, in tutti i sensi. Allora, per esempio, vediamo delle parole che troviamo sul vocabolario super sovranista italiano. Mi dica una lettera a caso. Non so, direi la lettera P di Palermo. Allora, lettera R di Roma. No, io le ho detto R di P, Roma. Per la verità, allora, vediamo. Roma. Appartiene a un gruppo umano molto legato alle sue tradizioni. Per esempio, quella di scippare sui mezzi pubblici. Il Roma, caratterizzato da mani molto grandi per rubare. Vive nel campo Rom con tanti figli. Infatti, come dice il proverbio, la moglie dei Rom è sempre incinta. E da dove viene il nome Rom? Da dove viene? Non lo so, da CD-ROM, perché il CD-ROM si infila nel computer, il ROM si infila in casa tua quando sei in ferie. Ma che luoghi comuni. Non sono regista, ma no, si sa che questi hanno invaso l'Italia come gli ostrogoti. Sono già 5 o 600 milioni i ROM in Italia. Addirittura, 5, naturalmente. 5 600 milioni. Sì, forse sono anche di più. Infatti, investiremo parte dei proventi del vocabolario per comprare delle belle ruspe. Allora, mi dica un'altra lettera, gentilmente. Direi la lettera L. R di rosa. No, L. Rosa. L. Fiore di colore rosso che cresce in braccio ai pakistani. La rosa cresce addosso ai pakistani. Ma non è vero. E che muore appena l'appoggi sul tavolo. E questo ci porta un'altra parola del dizionario del Pissi, cioè pakistano, cioè che appartiene a un gruppo umano dal colore scuro ma non proprio nero. I pakistani si dividono in due: quelli che di lavoro fanno i terroristi e quelli che portano in giro le rose, che sono molto più pericolosi, perché se tu sei lì seduto a cena e compri una rosa, tutto il ristorante capisce subito che sei a cena con l'amante. Ecco, quindi sono dannosi. Non mi interrompa. No, io non l'ho interrotta mentre parlava lei. Buonista. Abbandono lo studio. Mi dica un'ultima lettera. Vabbè, la lettera R. O di Olga. Ma come? Ragazza Olga dell'Est, giovane e avvenente, che invecchiando si trasforma in badante, perché prima pensa a trovare un marito e poi cerca di accaparrarsi la pensione proprio, del vecchio rincoglionito. Lo sa perché si chiamano tutte Olga? No, guardi, perché è facile da scrivere, così il vecchio non sbaglia quando deve intestargli la casa. O-L-G-A, solo 4 lettere. Ma dico io, cara mia badante, ti hai scelto di dedicare la tua vita a lavare il nonno, a fargli i minestrini invece di starti nel tuo paese con la tua famiglia. Va bene, è una scelta tua, ma i vecchi italiani hanno il diritto di essere circuiti da persone italiane. Se il vecchio deve essere circuito, chi circuisce deve essere italiano. È importante dirlo, e approfitto per lanciare un appello ai nostri anziani. Vediamo l'appello. Anziani, mi raccomando, anziani, fatevi truffare solo da persone italiane. Per cui alle prossime elezioni votate partito super sovranista e italiano. PSSI. Non mi interrompa, non mi interrompa, buonista, buonista, amico dei potenti. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Eccolo qui, l'inno del pissi. Cercate nelle edicole. Mi è entrato nella testa. Non Zingaretti della lingua italiana. No, vabbè, devo togliermi questo coronavirus che mi è entrato. Finalmente siamo riusciti a portare un po' di legalità in questo studio. Venga a trovarci di spesso. Legalità e di attenzione come verso il po'. Non mi interrompa. No, vabbè, non mi interrompa. Attenzione, la denuncio. La denuncio. Manda la sigla. La denuncio. Manda la denuncio. Buonista. Buonista. Nessuno, nessuno, 100.000.